chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Oggi è una domenica speciale perché ci abbiamo specialissimo un ospite particolarissimo. Esatto, è qui con noi mia figlia Alice. Ciao Alice. Ciao. Eccoci qua. Quanti anni hai? 9 anni, Alice ha 9 anni. Allora Alice, noi l'abbiamo chiamata così perché Alice è nel paese delle meraviglie, no? Quindi volevamo che lei avesse una vita meravigliosa. Allora oggi lei ci accompagna perché oltre alla prospettiva del cane e degli altri animali avremo anche la prospettiva dei bambini. Quando esatto. Diremo delle cose che il bambino non si spiega, che non sa che cos'è, glielo andremo a spiegare e Alice ci dirà qual è la sua visione delle cose. Cioè se lei potesse andare a comandare, allora potremmo andare a, appunto, a comandare con guardi, la fantasia di un bambino. Ma guardi, qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace. Ho problema nella testa. Questa è la canzone preferita di Alice. Sì, che ha contribuito a fare 18 quanti? 18 milioni, 18 di, milioni visualizzazioni. Di visualizzazioni. Vero Alice? È la tua preferita? Sì. Perché ti piace? Non lo so. Però riesce a cantarla bene, imita anche il movimento delle Caspita. Spalle. Caspita. Senti Alice, ti piacciono gli animali? Sì. I cani, quale animale in particolare? Il cervo, il cavallo, l'aquila. Ce li hai tutti a casa, no? Mi piacerebbe. Devi vedere quando mi ha detto papà vorrei un cavallo a casa. Che, ma come fa a fare le scale Alice? Non lo so, però lo possiamo sempre prendere. Ma è normale, Pippi Calzelunga aveva il cavallo che entrava in cucina, scusami. E anche tu ce l'avevi il cavallo. Bene, sì, però, ma non mi entrava in cucina. Meno male, brava amore, perché allora qui troviamo una bambina un po' diversa da quelli che a volte io ho incontrato, perché a volte tu vai nelle classi a fare zoantropologia didattica e dici fatemi degli esempi di animali, il dinosauro, il brontosauro, la tigre del Bengala. Cioè uno magari non sa che la gallina per esempio è un animale. O che il latte viene dalla mucca, non è che si compra al supermercato, giusto? Sì. Giustissimo. Senti, come ti immagini tu? Hai la fantasia di un mondo ideale? Come vorresti che fosse il mondo per un bambino? O anche per gli adulti? Visto che puoi andare a comandare, no? Senza guerre. Mm-hmm. Senza cacciatori, che tutti gli animali sono amici fra loro. Ah, cioè degna figlia mia, eh? Esatto. Senti, ma ti piacerebbe, come si vede per esempio nei cartoni animati di Walt Disney, che poter parlare con gli animali? Sì, quello mi piacerebbe tanto. Sì, eh? E tu però un po' papà ti ha insegnato a comunicare con gli animali. Con i gesti? Per esempio. E cos'è che non ti piace? Cacciatori. Ah, i cacciatori. Giuro non le ho detto nulla sulla caccia. Cioè, finora non le ho parlato della caccia. E perché, scusami, perché non ti piace la caccia? Perché uccidono gli animali. Quindi non ti piace qualunque forma di uccisione? Sì. È bello il rispetto. Tieni il microfono davanti perché sennò non ti sentono. È bello invece tu quando vedi un animale in difficoltà, un cagnolino in difficoltà, che cosa fai? Non ci ho mai pensato. Perché non ne hai mai visti? No, però, infatti non li ho mai visti. Però Alice è un'altra che ha salvato un sacco di animali. Perché c'avevi un gattino che è anziano, che l'avete portato a casa a 20 anni. A 20 anni. Morto. E beh, c'aveva 20 anni. Però dopo un po', più, purtroppo. Però l'hanno fatto vivere bene negli ultimi anni della sua vita. Infatti, perché l'avete salvato da che condizione? Con la mamma? Perché lui era in un giardino con una famiglia che lo maltrattava. Ah. E allora, non so come è successo, è stato portato al dove c'è tutto questo posto per al gatti. Gattile. Al sì, gattile. Con la mamma? Con la mamma l'abbiamo preso. Ah. C'era anche papà. Vedi? Sì, mi ricordo. Saluta la mamma, Saluta la mamma che ha detto saluta di salutare. Ciao mamma. Senti, allora, fra l'altro, come si dice, volevo leggerti una mail di una nostra ascoltatrice riguardo anche agganciarsi un po' a quello che diceva Alice, che dice, cari amici, vorrei farvi partecipi di un'esperienza che ho avuto come docente, in quanto facente parte del settore educazione LAV di Verona. Sono stata chiamata in una classe, seconda, media, inferiore, per un intervento educativo in seguito ad un episodio di violenza che ha visto uno studente in gita uccidere un volatile tanto per fare. Oh. Sono stata più di un'ora con questa classe alla presenza dei docenti e per me è stato confortante vedere che, senza trasformare la cosa in un inutile quanto controproducente processo, si è aperto un dialogo sereno e appassionante sul rispetto degli animali e sull'atteggiamento che l'uomo dovrebbe assumere verso chi è debole. Addirittura mi è stato chiesto di ritornare il prossimo anno scolastico per continuare insieme la riflessione. Ecco, vedi, quindi insomma qui è partito tutto dal fatto che un ragazzino di che età, si capisce? Dice che sono classe seconda media inferiore. Ha preso un volatile e l'ha ammazzato, sì. Quindi hanno chiesto l'intervento di questa esperta, no? Che si chiama Donatella, che potremmo magari telefonare mentre c'è la pausa, telefoniamo a Donatella magari e sentiamo che cosa ci può dire. Mi ricorda il terribile racconto di Sara Turetta, non so se ve la ricordate, la presidentessa di Save the Dogs, questa associazione che salva i cani della Romania, dove hanno in Romania un canile splendido e hanno fatto veramente grandi cose. Adesso stanno finendo la clinica, la prima clinica veterinaria di tutta la Romania. Io mi ricordo quando lei ci ha raccontato che le maestre nelle scuole in Romania, quando vedono che c'è un cucciolo o cose del genere, dicono ai ragazzini piccoli, anche delle scuole elementari, di ammazzarli. Cioè, guardate che c'è il cucciolo, dai, andate, e loro se ne liberano in questo modo. Quindi figurati ovviamente poi come possono crescere questi bambini. Sì, cioè... Uccidendo gli animali. Tu hai mai giocato a schiacciare le lucertole? No. Bravo. Però mio amico gli stacca le code. Ecco, vedi, è un classico. L'ho chiesto perché purtroppo quando ero piccola anche a me capitava di queste cose. Vabbè. Comunque, allora, bisogna abituarsi ad avere sensibilità. Tu che cosa dici agli amici tuoi quando li vedi fare qualcosa verso gli animali che non va bene? In realtà non li vedo quasi mai che lo fanno. E questo tuo raccontano. E questo tuo amico che gli stacca la coda alla lucertola? Non è più mio amico. Fantastico. Ah, non è più tuo amico. Beh, vabbè, amore, ma qui si tratta di una allieva che sta superando il maestro. Allora, facciamo un attimo un break e ci troviamo subito dopo. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E tra la la la la. Abbiamo trovato la professoressa di filosofia e storia. Ah sì, allora, visto che parlavamo di ragazzini e di questo intervento che è stato fatto grazie alla LAV di Verona, LAV sempre presente, no? Abbiamo con noi Donatella Ceccon, che è insegnante di storia e filosofia al liceo Enrico Medi di Verona. Ciao Donatella. Ciao Donatella, grazie della mail che ci hai mandato, che ci ha molto colpito. Mi fa molto piacere, perché volevo condividere con voi questa bella esperienza. Cosa è successo di preciso? Allora, parliamo di una scuola media di Verona. Quindi ragazzini di 12 ragazzi, anni? Ragazzi, diciamo sugli 11-12. Allora, te la faccio breve. In una uscita didattica, un ragazzo, un ragazzino ha fatto una cosa un po' brutta, anzi direi bruttissima, nel senso che, un po' per farsi vedere, eccetera, ha ucciso un piccione. E come l'ha ucciso? Da quello che ho capito, con un bastone o cose di questo Madonna. Tipo. Ecco, una cosa. La cosa però positiva in questa cosa bruttissima è che la scuola non si è voltata dall'altra parte. Certo. È stata una cosa molto bella. Bravissimi. Il loro insegnante ha detto: qui vogliamo un intervento educativo. E hanno telefonato a noi della LAV di Verona, sezione educazione, hanno detto: ah, c'è qualche collega che può venire a fare una lezioncina. Allora sono andata io la settimana scorsa, sono andata in classe con un'idea, non fare un processo. Infatti ho chiesto alla collega della classe di non dirmi chi era il ragazzo, proprio per non essere condizionata, perché volevo che i ragazzi vedessero questa lezione non come punizione, ma come un momento bello di crescita. Certo. Allora ho fatto questa lezione e le ho dato questo titolo: il rispetto degli animali e il progresso etico civile di una comunità. Certo, che è quello che diceva Gandhi. Quello che volevo, esatto, perfetto. Quello che io volevo fare. Allora, le mie finalità erano innanzitutto portare i ragazzi un po' a capire cosa sono i diritti degli animali, che gli animali sono esseri senzienti, e soprattutto insisto molto su una cosa, che come noi hanno una sola vita, persa quella è perso tutto. Certo. E questo voglio che lo sappiano, cioè che ci pensino. Poi riconoscere se stessi come esseri liberi e quindi responsabili di quello che fanno, e poi capire una cosa importante, che quando si ha una buona relazione con gli animali ci guadagniamo, soprattutto dal punto di vista intellettivo, perché entrare in un mondo che ha un linguaggio diverso dal nostro ci costringe ad essere più intuitivi, ad più essere sensibili, più attenti, più creativi. Senti, più curiosi. Qual è stata... torniamo, mi ricordo a qualche tempo fa all'economia di cura. Non so se ti ricordi, Rosita, quando abbiamo intervistato Antonella Riennatale, ci parlava proprio di questo. Cioè, praticamente quando noi ci occupiamo gli uni degli altri, riusciamo ad avere anche un'economia più solida e una qualità della vita altissima, così come succede nei paesi scandinavi. Insomma, quello che hai fatto tu è preparare le nuove generazioni. No? Che uno sembra di fare una furbata trattando male gli animali. Cioè, alcuni pensano, no, ma perché devi trattarlo male? Ma io tanto sono l'uomo e l'uomo può fare di più. E, insomma, facendo in questo modo invece condanna se stesso, non soltanto gli animali. Esatto. Senti, infatti, sì, dimmi. Qual è stata la reazione dei ragazzi? Allora, io sono stata molto contenta perché intanto ho trovato una classe... molto vivace. Io ho utilizzato questo sistema, lezione frontale, quindi non so, io davo delle informazioni, io ho un po' giocato sulla filosofia, li ho incuriositi con la filosofia, no? Ho detto che io ero lì in quanto amante degli animali ma anche filosofa, perché come Socrate voglio porre domande, voglio che le persone si pongano domande, voglio che non ci sia paura, no? Dell'incertezza e del dubbio. Il dubbio è anche una cosa che ci fa crescere, quindi li ho un po' portati. Stimolati. Ecco, però continuamente cercavo di farli parlare e hanno parlato tantissimo. Chi magari tirava fuori, io ho un cane, io ho un gatto, ecco, però sentivo che c'era molta curiosità. E io ho presentato loro quattro modelli di rapporto con gli animali, parlando della filosofia, quindi l'animale come strumento e bene dell'uomo che si può usare indiscriminatamente, quindi non so, Aristotele, l'animale macchina, Cartesio, e poi due atteggiamenti positivi, l'animale simile a noi che va rispettato, l'animale dissimile a noi che va rispettato, e ho spiegato perché io mi sento più vicina alla seconda. Perché appunto proprio nella diversità l'animale va rispettato senza la pretesa che sia come noi, anzi riconosce la dignità di essere un essere che ha una sua identità. E poi ho cercato, e qui loro hanno parlato molto, di far capire loro una cosa importante, che il rispetto per gli animali si inquadra in altre questioni, per esempio il rapporto uomo-ambiente, certo. E poi ho fatto un paragone tra animali e generazioni future. Cioè ho detto, cosa hanno in comune? Che sono deboli, perché gli animali non votano, non parlano, eccetera. E le generazioni future non esistono, più deboli di così. E noi dobbiamo assumere la responsabilità nei confronti degli uni e degli altri. Di quindi entrambi. Rispettare il mondo per lasciare a loro un mondo vivibile e per fare in modo che gli animali oggi possano vivere, quindi non sentirci onnipotenti nello spazio e nel tempo. Ti hanno detto i professori, gli insegnanti, se c'è stato un riscontro positivo dopo allora, il tuo incontro? Allora io ancora non lo so, però so che ti dico questo, che la lezione era dalle 9 alle 10, alle 10 è suonata la campana e i ragazzi mi hanno chiesto se rimanevo lì ancora. Meraviglia. È stato carino. Come si chiama la scuola in cui sei intervenuta? Preferirei non... No, ok. È una scuola media dove succede. Però ti dico, è una bella scuola dove. No, infatti, noi volevamo dirlo apposta per questo, proprio perché è stato giusto da parte della scuola e del preside della scuola di avere questo tipo di atteggiamento. Cioè è un istituto, Gli Angeli si chiama. Istituto? È un istituto Gli Angeli. È un istituto che ha medie superiori ed è una scuola molto seria. Di nome e... di fatto, Istituto Gli Angeli. Sì, no, sì, ma no, sono stati bravissimi, sì. Perché guarda che la maggior parte delle volte la scuola magari gli sfugge. Si volta proprio dall'altra parte. No, quindi Ho lasciato una specie di compito e ho detto, visto che siete ragazzini, insomma, anche bravi, provate, se avete voglia, di scrivere un racconto in cui raccontate l'evento in prima persona, ma il protagonista è il piccone. Senti, guarda, grazie mille Donatella, grazie a questa scuola che ha dimostrato di credere nell'educazione a 360 gradi, cioè anche questo è educare i ragazzi in quello che saranno, per quando saranno gli uomini del futuro. Grazie Donatella della Mail di averci seguito, grazie a tutti quanti, grazie alla LAV e a presto. e buon lavoro. Ciao, ciao Donatella. Grazie mille, ciao. No, ma pensa fortissima a questa cosa. Immagina se tutte le scuole attuassero un programma di avvicinamento, no, dei ragazzini, sì, alle questioni. Senti, animali. Tu, sentiamo un attimo la nostra opinionista d'eccellenza oggi. Cosa ne pensi di quello che ha detto la professoressa? Sei stata un po' distratta, dice, vero? È perché noi abbiamo parlato un linguaggio di adulti. Allora, sentito cosa è successo, no? Che un ragazzino ha maltrattato, ha ucciso, bastonato un piccione. E che cosa ha fatto questa signora qui? È andata a scuola ad insegnare, no? Ma a te piacerebbe avere nella tua scuola qualcuno che venga lì a raccontarvi degli animali, del rapporto con gli animali? Sì. Sì, certo. Che entusiasmo. Sono certo. Ben decisa. Ah, sei indecisa? Sono un po' indecisa. Non magari, magari non li vuoi questi qua. Cioè, scusa, c'ho già te. Vedi, giustamente lei dice scusami. Ma tutti i tuoi compagni di classe hanno bisogno di qualcuno. C'è il master. Adesso ci abbiamo l'angolo dei nostri VIP. E con grandissimo piacere che vi presento Enrica Bonaccorti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Enrica, sei complice di sfruttamento minorile in questa puntata. Io non so se ti rendi conto, c'è qui mia figlia, ti ha appena detto buongiorno, che ha 9 anni con noi oggi. Alice nel Paese delle Meraviglie. Come stai, Enrica, intanto? Bene, sto bene, Rosita. Senti, noi ti disturbiamo. A parte che io ho scoperto di recente che hai scritto un testo di una canzone fantastica, fra l'altro tu. Quale? Di Migliacci Modugno. Migliacci, se l'ha scritta Migliacci, non l'ho scritta io, no? No, il testo. Appunto, il testo. Migliacci scrive i testi come me. Rosita, buongiorno. Ma scusami, ma io ho presentato... vabbè, poi dopo ne parleremo in separata sede. Sì, Rosita, buongiorno. Arrivederci, salve. È stato un piacere. Sono ben alzata, mi sono alzata. Abbiamo aperto questa conversazione con una rositata, perché questo è tipico, no? È uno schema tipico. No, sono lenta, io sono lentissima, quindi nonostante sia sveglia dalle 8. Allora, parliamo di cose di che riguardano questa mattinata. Gli animali. Io non è a caso che ti ho chiamato, perché io mi ricordo tu hai fatto tanti programmi sugli animali e hai una sensibilità ovviamente spiccata, e quindi a noi ogni tanto ci piace chiacchierare con personaggi noti per sapere qual è il loro rapporto con il mondo animale o il mondo del cane in modo particolare. Sì, cioè, come è cominciato, per esempio, no? Cioè, anch'io ti identifico come un po' una paladina, no, dei diritti degli animali. Il mio rapporto con gli animali è sempre stato molto forte fin da quando ero ragazzina. Ho saputo, perché questo onestamente non me lo ricordavo, che un giorno una maestra, non so, una direttrice all'elementare ha chiamato casa per dire che io non mi volevo muovere da scuola se non potevo portarmi a casa un gattino che avevo trovato per strada. È carino. È stata proprio una cosa bestiale, proprio così, assolutamente. Quanti anni avevi? Ma anche elementari entro i 10, ma ben meno di 10. E anche perché io vivevo in una caserma. Ero l'unica bambina, l'unica famiglia che viveva in mezzo a 300 guardie e non si sarebbero potuti tenere animali. Invece ho avuto anche un cane lì, però anche quello mi è sparito, poi hanno detto che si era perso, era scappato. Io sempre da bambina potevo credere a tutto, ma insomma non si potevano tenere questi animali. Avevo soltanto un canarino che avevo chiamato Rosa, poi ho scoperto che era un maschio, ma faccio poi è rimasto Rosa, e che mi aveva insegnato a fare il fischietto, quello della radio, proprio pari pari. Ah sì, quello del giornale radio? Quello lì sapevo fare quando ero piccola, col canarino. Vabbè, basta. Poi nel corso della tua vita hai avuto... Così nasce il rapporto con gli animali. Mia madre non ha mai voluto neanche... stavo per dire un topo, ma quello è chiaro, neanche un fringuello in casa, no? Perché lei amava molto gli animali, però loro a casa loro, noi invece ho avuto la soddisfazione negli ultimi anni della sua vita che ne avevo appoggiato a casa, diciamo, uno dei miei cagnolini, che poi non me lo ridava più, e quando lo chiamavo e gli chiedevo ma come stai, lei mi parlava prima del cagnolino che di lei, della sua salute. Per cui insomma io consiglio veramente a tutti di avvicinarsi agli animali fiduciosi di avere qualcosa in cambio di molto più forte di quello che tu dai a loro. Ma tu oggi hai un cani, gatti, oppure non hai animali in casa? In questo momento c'è un cane per casa, ma non è il mio, è quello di mia figlia. Non è educato come vorrei che fosse educato, per cui è quello tratto. Ci abbiamo qua, il master dell'educazione. Allora facciamo una cosa, Enrica, se ci aspetti abbiamo un attimo un break e ritorniamo subito con te. donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Stavamo parlando con Enrica Bonaccorti e finalmente ho capito qual era la canzone. Del cane? Del cane, però scusa, chiudiamo un attimo che io sono rintronata totale. La canzone, il testo che ha scritto Enrica Bonaccorti era La lontananza, giusto? Sì, era Lontananza. Pezzo strepitoso che conoscono tutti, anche i cani. Allora, raccontavo del tuo... secondo me anche Alice, se glielo chiediamo, che ha 9 anni, te la sa canticchiare. Diciamo, tu hai avuto... Quindi tu fin da piccola hai avuto questa attrazione spontanea e sensibilità verso gli animali. E questo credo che... Guarda, cercavo di non schiacciare le formiche quando camminavo. Grandioso. E tuttora cerco di farlo. Guarda... Io credo che dovremmo ricordarci tutti che esistono 3 regni. Il regno vegetale, il regno minerale e il regno animale. Noi apparteniamo al regno animale, grazie a Dio. Preferivate stare nel minerale o nel vegetale. Noi apparteniamo al regno animale e esiste un'unica razza umana, la specie dell'uomo ha un'unica razza, per cui è inutile dire di che razza sei, perché se sei umano, come Einstein, no? Quando gli chiesero la dogana razza, gli disse umana. Certo. E la stessa cosa, insomma, dovremmo pensare che gli animali fanno parte del regno animale, non di razza umana, ma siamo molto vicini, molto simili. Certo. Io ho smesso di mangiare carne pensando ai maiali, esattamente, perché praticamente mangiavo soltanto carne di maiale. Ai polli. Quando ho capito cosa sono, come siamo vicini noi e i maiali, tant'è vero che non è un caso che tutte le varie, i vari trapianti vengono da questo, da questa specie. Insomma, io era come mangiare il mio cane, non me lo metto il cane col teleforchetta a tagliarmi una fettina nel piatto. Questo vorrei ricordare, insomma. Beh, guarda, stai parlando, io sono diventata vegetariana da 3 anni, tendente al veganesimo, quindi ci capiamo. Senti, grazie intanto di questa tua testimonianza, perché sentire anche che cosa porta la sensibilità della gente, anche più conosciuta, a volte fa riflettere alle persone che ci ascoltano. Volevo sapere, che progetti hai ultimamente? Ma io continuo a essere molto... Siamo incavolata. Ah, bene. E triste perché non ho più la mia radio. E so che molti che non mi hanno più provata sentono Radio 24, per cui voi sarete molto contenti. Però allo stesso tempo mi dispiace non avere più il programma che per 6 anni di fila ho tenuto tutti i pomeriggi per 1 ora e mezza. Beh, tornando a casa. Però, visto che ne parliamo adesso, magari questo potrebbe essere un'occasione per far tornare alla mente che facevi un bellissimo programma e ricominciare, che ne sai, magari in un'altra radio. Ah, beh, sì, perché no? Comunque per me la radio è la cosa migliore. Sai che avevo coniato una specie di slogan che diceva: chi fa la radio e chi ascolta la radio è meglio. È vero. No, guarda, anch'io adoro la radio, sia ascoltarla che farla, perché effettivamente ti dà anche modo di usare la fantasia, no? Sentendo la voce, sentendo i toni di voce, i timbri, certo, di voce diversi, la musica ti accompagna in qualunque situazione, mentre la televisione è un po' statica perché ti obbliga a star lì seduto a guardarla. La radio la puoi ascoltare facendo qualunque cosa. Senti, grazie Enrica, speriamo di risentirti in radio il più presto possibile. Grazie Rosita, questo è un bellissimo augurio. No, grazie a tutti voi. Ciao Enrica Buonaccorti. Ciao. Un abbraccio. Grazie, ciao. Grazie Enrica. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Bene, allora speriamo di sentirla Enrica in radio. Perché mi ha fatto venire in mente una canzone di Caparezza che dice sei diverso, e lui dice è impossibile, vengo dall'universo, no? Quando si parlava, no? Cioè, la specie umana è una sola, no? Non ci sono razze diverse. Esatto. Allora adesso abbiamo un po' di notizie. Che ci vuoi dire il nostro opinionista di oggi d'eccellenza, che ci dice di questa chiacchiera? Non si esprime. Scusa, ma tu sei un opinionista, non mica sei di far scena muta in radio. Però attenzione, parlare. Attenzione, che io ho delle cose non da dire. Non capisco quello che dici. Infatti, devi parlare più semplice, Rosita. Parla tu in barese, magari capito. Ti capisce. Allora, Alice, mo mi capisci a me? Sì. Vedi? Di qualcos'altro. Tutta una volta. No, aspetta, parliamo di cose importanti. Quanto tempo abbiamo ancora? Non so. Allora, abbiamo delle cose da dire sia su questa cosa della diversità, ed è un punto molto, molto, molto importante, perché a volte noi, per attribuire, eliminare le differenze di valore, siamo convinti che bisogna essere tutti uguali, e invece non è così. Assolutamente no, nella diversità che ci si migliora. Sì, cioè è vero che il ragionamento di Enrica, io l'apprezzo tantissimo, quando ha fatto l'esempio, no, che alla dogana hanno chiesto ad Einstein, diceva lei di che razza, lui ha detto umana, no? Perché è la specie umana, ma ci sono razze diverse, cioè il fatto che ci siano come si dice, gruppi etnici diversi, etnie diverse. Razze diverse, è vero, il fatto è che questo, ci arricchisce, non è che indebolisce quello che noi siamo. Vabbè, adesso fallo un po' come fa Piero Angela. Ed è proprio qui, in questa radio, come potete vedere, c'erano una volta due adulti e una bambina, e pensate, usavano microfoni proprio come questi. Senti papà, prima o poi dobbiamo intervistare Alberto Angela, assolutamente sì, ma magari, ma facciamo tutta una trasmissione con Alberto Angela, cioè, non si finirebbe mai di fargli domande. Allora passiamo al nostro GR a quattro zampe. Notizie a quattro zampe. Allora, una notizia fantastica: a Torino il record dei musei pet friendly, porte aperte anche alla Mole e a Palazzo Madama. Grazie Torino. Venditti dovrebbe scrivere un'altra canzone dicendo grazie Torino. Esatto. Che ne pensi, Alice? Allora, praticamente che cosa succede? Che quando tu vai nei musei, Alice, se tu vai lì col cane, ti fermano, ti guardano con un'aria come dall'alto come verso il basso, e dire: scusi, ma lei dove pretende di andare con qualcosa quel cane qui dentro in un museo, no? Tanto che io quando sono andato in Puglia, mi ricordo, a Castel del Monte eccetera, non mi volevano far entrare con i cani, non ci sono potuto entrare. E invece che cosa sta succedendo a Torino? Viene segnalata da più parti come una città nella quale tu il tuo cane te lo puoi portare, puoi girarla tutta, puoi girare il museo dell'automobile, puoi girare i giardini reali, puoi girare il museo del cinema, puoi girare Palazzo Madama, puoi girare la Mole con i cani. A volte, soprattutto nei musei, arrivo a Alice che c'ha il ditino alzato, vuole dire una cosa, a volte nei musei possono entrare soltanto cani di carne di taglia piccola e nel trasportino, e pensa, se non hai il trasportino te lo offrono loro, te lo danno loro. Ecco. Wow. Se hai il cane, visto, incredibile, Alice, ma se non hai il cane piccolo, tu dici: ma col cane grande come faccio? Bene, ti mettono a disposizione addirittura un dog sitter. Cioè, beh, io fantastico. Sono, guarda, tappeto rosso per la giunta. Sì, bisogna dire, come si dice, il direttore di Palazzo Madama, Guido Curto, che magari un giorno potremmo chiamare, adesso poi ti facciamo parlare, Alice. Giustamente allora, ha detto: per noi non c'è nessun problema, anzi, oramai i cani entrano dappertutto, i proprietari, così come se ne occupano sulla pubblica via, possono farlo anche all'interno di un museo. Effettivamente, voglio dire, che quindi, problema il turismo c'è? Sta aumentando a Torino meritatamente, e Torino diventa la città più pet friendly d'Italia. Fra l'altro i turisti che arrivano dall'estero sono felicissimi di questo, perché spesso viaggiano e si portano i loro cagnolini, e a volte non vanno a vedere, non entrano nei musei perché dicono: madonna, il cane non posso entrare. Dice Alice, cosa vuoi comandare? Ma in spiaggia si possono portare in questa città di Torino? Amore, lo so che in geografia dobbiamo studiare ancora delle cose, no? Perché lei ha cominciato in geografia a studiare che cos'è il mare, che cos'è la montagna. Che pessimo, come si dice? No, perché in spiaggia normalmente non si possono portare. No, amore, che a Torino non c'è il mare. Io so che te, che sei nata a Bisceglie, e vai a Barletta. E scusa, neanche Gaggiano a Milano. E neanche Gaggiano, esattamente. Come Gaggiano, come Milano, così è Torino. A Torino non c'è il mare. Lo sapevi questo? Però ci sono tre fiumi, pensa a te. Tre? Quali sono? Non li so nemmeno. La Senna. Il Tamigi. Sì, come si chiama? Il Po. No, il Po forse sì, però. Sì, no, il Po è. Il Po dov'è? Il Po è. Il Po a Roma. Quello. Non sei ancora arrivata. Io meglio che non parli, perché se no faccio più figura peggio di Alice. Allora, quindi su Torino abbiamo detto questa cosa qui. Adesso io volevo parlarvi di un'altra cosa. Uh-huh. Ho letto un articolo su Gente che ha avuto un buon esito, grazie a Dio, ma allucinante. E qui volevo l'intervento del dottor Vaira. Mi dica. Che ci spieghi. Allora, c'è un mio cugino. Il famoso cugino mi ha detto che i cani antidroga, cioè i cani che vengono utilizzati soprattutto in aeroporto e in altre situazioni per scoprire se dentro delle valigie c'è della droga, sì, per poterlo fare sono drogati. Sì, ho sentito anch'io, tante volte me la fanno questa domanda. Dice, ma scusate, ma è ovvio, ma come fanno a scoprire la droga i cani se non li drogano? E io dico, ma guarda che non è così. E alcuni vogliono addirittura, cioè insistono, cioè, no, ma vabbè, ma è impossibile. No, guarda, assicuro che li drogano. Allora, la teoria sottostante, la cuginata sottostante è... visto che i cani devono trovare la droga, bisogna drogarli. Devono così pippare. Così, esatto, perché così si crea questa dipendenza. Il cane va alla ricerca della droga perché come fanno, vuole invece farsi un'altra pera. Invece il processo non è assolutamente questo. Anzi, farebbe malissimo ai cani antidroghe drogarsi, perché le loro performance decadrebbero in modo fa malissimo proprio drogarsi. Devastante. E quindi come fanno ad abituare un cane a riconoscere? Allora, invece... ti dico una delle procedure, magari ce ne saranno diverse, però la più usuale è questa. Con il cane gioca principalmente, quindi che cosa fai? Tu arrotoli uno straccio, sai come i canovacci da cucina, no? Una cosa del genere come consistenza, e fai giocare il cane tanto su quello. E ci sono delle tecniche che noi addestratori conosciamo che fanno aumentare moltissimo la motivazione del cane a voler giocare con questa cosa, strapazzarla, tirarla, strapparla dentro e via dicendo. Poi che cosa succede? In laboratorio si estraggono le molecole che danno odore, che danno quell'odore di quella droga, e si impregna questo straccetto arrotolato di quel tipo di odore. Ah, certo. Quindi che cosa fa il cane? Il cane va a cercare la droga, l'odore della droga, per poter essere poi ricompensato con questo salamotto. Quindi in realtà è drogato di gioco. Ah boh. Allora, diciamo anche la differenza delle ghiandole olfattive nostre rispetto a quelle di un cane? Sì, sono i recettori, no? I recettori olfattivi. Noi ne abbiamo 5 milioni, mentre i cani ne hanno da 150 a 300 milioni. Ecco, circa. Tanto per far capire perché loro sentono molto meglio. E questo è anche importante, quindi, che chi lavora in questo settore scelga le razze con oculatezza. Esatto. Perché tante volte si usano i pastori, ma i pastori hanno 150 milioni di recettori, mentre oggi stanno andando per la maggiore Labrador, Beagle. Perché ne hanno di più, no? Perché ne hanno di più, esatto. Un Beagle ha 250 milioni di recettori, per esempio. Fischia. Quindi è più bravo. Senti, quanti recettori hai tu olfattivi? Tu non li hai mai contati? No. Ma come? Dai, allora stasera contiamo uno per uno tutti i recettori che hai nel naso. Alice, torniamo subito dopo un attimo di pausa. Dillo al microfono. Che cosa? Quello che ho detto io, torniamo fra un attimo. Devi parlare più semplice. Amore, parla al microfono e dici ci vediamo fra poco. Ci vediamo fra poco. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E siamo arrivati anche oggi alla nostra super ricetta condivisa con la nostra Mara di Noia. Mara, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno. Super ricetta, Super Mara. Super Mara, grazie. Oggi abbiamo una degustatrice d'eccellenza che è Alice. Allora Alice, adesso senti questa roba qua, perché la Mara ci fa delle ricette per cani e anche per bambini, che puoi mangiare pure tu, che sono squisite. Scusa, sentiamo al volo, che cosa mangeresti tu assieme? Aspetta Mara, Alice, cosa mangeresti tu assieme al tuo cane? Mangerei pizza. Poi no, aspetta, che c'ha tre piatti per pizza, oppure? Pizza, pesce spada, pasta al sugo e pasta al tonno. Punto. Mangia solo quello. Lei, per lei frutta, verdura, tutte quelle robe che fanno molto bene. Ma io mangio quelle cose verdi, cavoli sono, no. Ma la verdura non è soltanto i cavoli. Quella verde. Sì, oggi abbiamo una ricetta. Aspetta, Mara, che abbiamo la nostra sigletta di piatti e ciotole. Piatti e ciotole. Vai. Eccomi, allora oggi vi propongo una ricetta molto semplice, come sempre, a base di riso integrale. Vi occorrono 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 zucchine, di cui una tagliata a cubetti e l'altra a strisce sottili, 1 cucchiaino di senape gialla in semi, 1 cucchiaino di semi di finocchio, 180 grammi di fagioli di soia verde, che sono chiamati anche mung, 180 g di riso basmati integrale, 400 ml di brodo vegetale, 1 manciata di pinoli, 1 manciata di mirtilli rossi, 1 manciata di prezzemolo tritato in modo grossolano e 1 manciata di coriandolo sminuzzato, anche lui, e 1 limone. Vedi, Alice, hai sentito? C'è il coriandolo, hai presente quelli che si usano a carnevale? Ma non sono quelli. Ah, non sono quelli? No. Ma no, quindi... sono verdi. Questi sono verdi, coriandoli verdi. Questi sono vegetali, allora. Esatto. Pensavo fosse lenta, invece è rock, eh? È la bambina. Dicevi, Mara? Allora, bisogna scaldare 1 cucchiaio di olio in 1 tegame, soffriggere. Allora, soffriggere vuol dire scaldare la zucchina a cubetti a fuoco vivace fino a quando è leggermente dorata. Aggiungere i semi di senape, i semi di finocchio. Quando cominciano a scoppiettare e ad avere un odore caratteristico, aggiungere i fagioli, il riso e mescolare. Unire il brodo e aggiungere un pizzico di sale. Portare a ebollizione e fare sobbollire fino a quando tutto il liquido sarà assorbito. Verso alla fine mescolare tutto insieme, cospargere con i pinoli, i mirtilli rossi, le erbe aromatiche tritate e irrorare con succo di limone. Fischia, ma cioè. In tutti questi termini, irrorare con succo di limone. Poi Alice, hai sentito che bisogna anche sobbollire? Significa sobbollire. Che significa sobbollire? Significa portare a bollore non vivace. Non vivace. Le cotture lente aiutano i semi a cuocere in modo adeguato senza perdere le loro proprietà nutrizionali. Ma grande. E questa è una ricetta molto nutriente, anche se è leggera, come tutte quelle che piacciono a me, perché abbiamo, come vedete, sia il chicco integrale del riso, tra l'altro il riso basmati integrale ha un profumo intensissimo, e i fagioli di soia verde, che si trovano ormai anche nei supermercati. Scusa, tradizionali. Ma i fagioli di soia verde non sono gli edamame? Allora, sono diversi secondo me dagli edamame, perché l'edamame ha un baccello più grande, mentre il mung è proprio piccolino, è un legume piccolo e molto concentrato, di colore verde. Ok, bene, è poi un giorno facciamo una cena assieme, ti invito a casa mia, però cucini tu. Tu i gemelli, cani, tutti, tuo marito. No, ma potete venire anche da me a cena, così siamo comodi, così no. Nella mia, nel mio habitat. Esatto, senti, grazie Mara anche per questa ricettina succuletta. Poi a quest'ora viene una fame che succuletta. Succuletta. Ecco. Hai detto tu succuletta. Ho detto succuletta. L'innocenza dei bambini che beccano subito le parolacce anche dove non ci sono. Ah, ecco, appunto, ma non era una parolaccia questa. Grazie Mara, buona domenica. Ci vediamo domenica prossima. Grazie Mara di Noia. Ciao. Ciao. Allora, io sono cresciuta sentendo dire che un anno del cane equivale a 7 anni nostri, ma io non credo che si dice che sia proprio così, e che ho trovato questo articolo su focus.it dove in realtà fa una netta distinzione fra le varie fasi dell'età del cane. Tu che dici? Eh beh, è corretto, perché se tu pensi ad un cane di 1 anno, non è come un cane che non è come una persona di 7 anni. Anzi, ti dico per esempio che i cani cominciano ad avere la loro pubertà attorno ai 7 mesi, 8 mesi, quindi si possono già paragonare a quell'età a ragazzini di 12 anni. Quindi anche questa è, me l'ha detto mio cugino, una fandonia. Sì, io non so, forse deriva dal fatto che uno dice, bah, sai, un cane di 10 anni, 70 anni dell'essere umano, quindi un cane che ha 10 anni, forse sarà stato questo il calcolo, però effettivamente non è proprio così accurato. Diciamo che c'è una crescita rapidissima nel primo anno di età, comincia a rallentare fino ai 2-3 anni e poi dopodiché diventa un pochettino più lenta, viaggia, come dice questo articolo, si va ad una velocità di crociera, no? Sì, che poi dopo cambia anche a seconda delle razze dei cani, se è un cane molto grande, se è un cane piccolo, se è di media taglia, quindi ognuno c'ha. Diciamo che per fare un paragone possiamo prendere questo: il momento in cui il cagnolino comincia a cambiare i denti corrisponde all'età in cui comincia a cambiare i denti un essere umano, no? A che età hai perso i denti tu, Alice? Io li ho persi a, vediamo, 6, 7 o 6. 6, 7 anni. Li hai persi tutti ora? Hai perso tutti i denti, non ce li hai più. No, ho perso questo. Ma te li metti sotto il cuscino e te li viene a portare via il topolino? Di più spesso è la fatina. Ah, tu hai la fatina. Quello che le persone devono sapere a casa è che il periodo che va dalla nascita o addirittura da quando il cane è nella pancia della mamma, no, che già comincia ad apprendere lì, fino alla caduta dei denti, è un periodo molto importante perché la mente del cane diventi fertile. Cioè in quel periodo lì il cane deve socializzare, vedere gente, vedere posti, fare esperienze, perché questo ne determinerà l'adattabilità e l'intelligenza poi in futuro. Che nel cane era chiuso nel primo anno di vita, compresa la gravidanza. Meno di un anno, fino a quando perdono i denti, quindi si parla dei cani 4 mesi. Ah, perché i cani perdono i denti a 4 mesi, non mi ricordo. All'incirca sì. Ah, ok. Bene, comunque anche noi, si dice che anche una mamma quando è incinta, in gravidanza, tutto quello che percepisce il feto sarà poi anche quello che si porterà nel futuro. È la stessa cosa per i cani. Quindi vediamo che non cambia molto l'esperienza. Allora, anche per questa domenica abbiamo concluso. Saluta Alice, perché chissà se tornerai qualche altra volta in radio. Saluta tutti i nostri ascoltatori. Saluta, di Radio 24. Così possiamo terminare questo sfruttamento minorile. Ciao a tutti. Grazie, buona domenica a tutti. Scriveteci, chiedimi se sono felice, chiocciola di 24.it. Ciao, buona domenica da Rosita Celentano. E Angelo Vaira, alla prossima!